stata la... come diciamo come stazione. Ma così le cose si non si mettono in modo che si possano trovare un macello buio. Poi alla fine ti trovi tutto accavallato, vai a cercare una cosa e non la trovi. In effetti funziona così. Cappa di roccia. Ok, è abbastanza ordinato, ma questo deve essere il solito. Cioè, 22 microfoni da palmo, tutti in un cassetto. Negli altri cassetti ci sono tutti i cavi di connessione. Negli altri cassetti tutti giunti e giuntini. Nelle cassettine PL contro PL, quelle... Ciao Gigi. 213, tutti i cavi, basta così. siano 50 ohm vanno bene per la 27, quindi 213 va bene. Prima usavamo le RG8, le RG58, che lo stiamo ancora usando tutti. Il 213 è quello che ha preso il posto delle RG8, capito? Quindi lo puoi usare, non ci sono problemi. Guarda, c'è Gigino lì, che lui è esperto in cavi, ne ha una tassa intera, vai da lui e te le fai prendere una matassa e sei a posto. Vai Gigi. È positivo, dai, ne ho regalato, le ho dato anche una Fili Gonzalez. Buonasera a tutti. No, chi te l'ha detto ti ha consigliato male, Gianni? Vuol dire che non ne sapeva. Se noi parliamo dall'antenna di casa, da su, dal tetto, accende dentro casa, ci va quello grosso, che quello ti dura 20 anni, se non di più pure. Se metti l'altro, se ti fa un anno è troppo, perché è troppo sottile, capito? No, no, al caso stesso si scioglie quello là. Invece quello c'ha, è grosso e va bene quello lì a portarlo dentro casa, ci vuole quello lì. Solo che costa caro, come dice Claudio. Io l'avevo preso lì alla CPC a Terra Secca, ne avevo preso esattamente un momento, la prima volta, lì abbiamo montato l'antenna, là. Non mi ricordo, ma ne avevo preso, mi pare, roba di 30 o 40 metri. Non me lo ricordo, 30, no, che sta dicendo minchiate. In più, perché adesso non mi ricordo, l'altezza arrivare in garage c'erano diversi metri, ne avevo preso parecchi metri io. Quanti metri ne hai preso? Siamo andati assieme. So che però ho speso 200 euro di cavo, me lo ricordo ancora, 200 euro di soldi di cavo ho preso, 199 euro di cavo ho speso. 4 euro ce lo fa pagare il 213, hai capito? Il signor Tonino. E io ne ho preso una matassa di H1000 che è superiore al 213, ma per le mie antenne, che praticamente c'è il centrale rigido, doppia carta, eccetera, e la gomma è leggermente più grossa, l'ho pagato a 3,50 euro. Capito? A 3,50 euro, anzi a 2,50 euro, lo sto dicendo, una matassa da 50 metri e 250 euro. Capito? Da 2,50 euro, e lui ce la fa pagare 50 metri, ce la fatti pagare a 200 euro, 5x4, 20, già lo so, sì, infatti non ne ho più comprato, capito? Gianni, ma quanto te ne serve a te, Dimitri? Guarda, ascolta, volevo sapere, ma quel campo 213, però lo devo mettere anche tra il barracchino e il lineare, non posso lasciare l'RG58, perché se cambio il campo dall'antenna devi cambiare anche gli spezzoni, giusto? O posso lasciare l'RG58? Ti miro tu, classifero. Se parli e io parlo, poi non senti quello che ti dico, non lo capisci. Già ti ho capito, Dio ti ha capito. Allora, la calata dall'antenna, che te lo conferma Claudio, a dentro casa lo fai di quello grosso. Dentro casa metto un commutatore, quello che ti pare e ti piace. Un commutatore come ce l'ho io. E, ecco, e lì li fai le ispezioni, li fai da quello normale, l'RG58, adoperi quello lì dentro casa, capito, gli ispezioni. Se sei un lineare che tu devi mandare 5.000 watt, allora gli metti quello grosso. Ma fino a 1.000 watt va bene quello 58. Ciao Gigi. Però tanto fa che? Positivo, ciao Gigi, ben ascoltato. Ciao Fabio. E così, dai, è come ti ha detto Gigi, Gianni. Fai come ti ha detto Gigi. E fai così, dai. Poi voglio ispezioni grossi? Voglio ispezioni grossi? Io ne ho diverse già pronte, già fatti. Di quelle grossi. Che costano il PL, vogliono il PL, vogliono di pesi, vogliono quelli buoni, io ho quelli buoni, ho quelli in cosomi. Cazzo, uno spezzone così, minimo, uno spezzone di così, no, già con il PL, poi anche Claudio sicuramente adopera quelli lì, quelli imbacchiti, quelli marrò, quelli che non sono in plastica, però come vai a saltare lo stesso, così come si squaglia quando vai a saltare lo stesso. No, io uso quelli Amphenol, che sono quelli in porcellana, per gli HF. Per il baracchino uso quelli come usi tu, ma quelli per gli HF, per questa qui ad esempio, io ho quelli porcellanati, mercatino, a Milano c'è un mercatino, sta facendo questo collega che c'era lì a Milano che è dovuto andare che c'era 2 settimane, adesso deve tornare, però deve tornare e tornare subito. È andato, l'hanno portato in questo posto e c'era questo mercatino, i baracchini, funzionano baracchini tipo alla 48, a Faietti, questi apparati così compreso, davano addirittura anche la scatola, c'era anche la scatola col microfono, funzionante, 5 euro l'uno questi baracchini. Ci mettono dove c'è la fiera, praticamente dove c'è la fiera, ma poi c'è la fiera in Italia, lì ogni settimana, ogni 15 giorni come fanno per dare segni, fanno la fiera a tutti quelli che hanno radio, che hanno roba usata eccetera, e li danno quel prezzo, ma in continente noi come te noi che c'è il mondo, nell'aldilà siamo nell'aldilà, io sai quante cose ho comprato così in fiera, per dire una colonnina dentro, quella che ha falchetto, che qua vai a comprarla alla GBC ed è quella della Intec, quadrata, rettangolare, mi sembra, no? Quella rettangolare, con la sua tappetina, la regolazione, solleva, bassa, eccetera. Qua la GBC, se vai a comprarla, meno di 15 euro non te la fa pagare. Io quella che ho dato a falchetto l'ho pagata 3 euro, ed è nuova, eh. Adesso deve andare, non so quando deve andare, se tu vai a quel mercatino, cioè mi hanno accompagnato, io 2 settimane, perché già avevo mia moglie, ed ero in ferie, 2 settimane in ferie dovevo fare questo intervento agli occhi, all'ospedale di San, ma detto il nome speciale a Milano, e l'hanno accompagnato, e così è andato, siccome lui non c'era il giorno lì alla cosa, lui c'è la chiesa, e l'hanno provato a curiosare. E se ne ha comprato 2, e me l'ha fatti vedere, cazzo, lui era 48, l'ultimo tipo addirittura pura, cazzo, mi sono piaciuto e toccato. E poi ero l'uno, dice, guarda, se non c'avevo il tuo numero di telefono, ho pensato a te, ho detto, guarda, Gigi dice, questi qua li avrebbe tutti rifatti al nuovo e tutto. Ha detto, guarda, se ci vai, ho detto, compramene 50 euro, se ce ne sono, c'è una infinità, a 5 euro, tutti a 5 euro, tutti funzionanti poi. Ha detto, a 5 euro uno, prenditi, do il soldo, ho detto, prendine un po' quello che è 48 Inter, che è quello che ti capita, prendi a 5 euro, ho detto, al limite si deve prendere il ricambio, però ho detto, cazzo, a 5 euro ho prendili, prendi uno una decina. Vabbè, glielo credo. No, io ho quella frema tutta domenica, è qua ancora, perché chi due ferie? Mamma, ti arriva, ti avevi tanta bella, ti telefonando, c'è quelle ferie, sono fuori, vai non a mare. È già uscito in bar, comunque qua, ma se appena rientra glielo diamo quella radio. Riprendi Falchetto. Avvertivo, 5 euro si possono comprare, anche per mettere in cambio se non funzionano. Vanno più che bene, Gigi, caspitina, e me ne avevate pigliato altri quanti da euro, da voi. Cato hai, Gigi. No, beh, è venuto mio nipotino, con una data di plastica, vulcanino, e fammi vedere se ne è caduto un altro dente. Dopo se vede un voce, fammi vedere che è caduto un altro, non so cosa vuole, qua col dentino dentro la data di plastica, non so cosa già vuole. un topolino, deve dire che il topolino le porta il regalino. Ma chi ha un appesso vulcanino? Ah, mi ridendo. Dalla nonno che ti fa il regalino, che lo mette dentro il topolino, poi ti porta il regalo. No, il topolino me lo ti dà i soldi. Vai, ecco. Che esce vulcani, tutto il tintigato, sì. Senza lenti, sì, vulcani. Non ha messo uno spray per ammazzare tutti. Ah, e dille a nonno di mettere l'esca e di toglierne, di far cadere il topo dalla trave stanotte. Non ce ne sono più zuppi, topolini non ce n'è, tu se non ne mette, perché io ho messo la cosa per il topo, capito? Io devo durare a ciappare a cosa, cioè, a Graziano ce lo conosci tu, a Graziano Monni, fratello di Piero Monni, Graziano lo conosci tu là. E non è porto invece. Graziano ogni tanto lui lavora in questo coso, Mi è dato per la benzina quella buona, amico. Ma come puoi pure strada dispensare come cazzo? No, mette la medicina per i tubi, per le cose, hai capito? E ogni tanto quando la ciappa in giro, ho detto lui, e allora la cura mi parla una buccia, mi dato un po' di cose che chissà già. Ma la distrugge veramente i tubi, eh? E glielo credo, se noi lo facciamo mensilmente, bastava chiedermelo. Quella, le bustine, la disinfettazione la facciamo sempre mensilmente in tutti gli impianti, in tutte le sale quadri, perché stanno lì dentro, ci fanno un nido, ci mangiano i ricavi ed è un casino lui, capito? Allora lo facciamo spesso quella cosa lì, non c'è problema. Va bene, avanti perché? Quale mettete voi, quello a Badini o a Riso? A me sta dicendo a Claudio. A Claudio forse sta dicendo se metti quella da lì. Ehi, a Claudio stavo dicendo. A me chiamato. Ehi, ha detto quella da Dini mettete o quella a Riso? No, Riso ne siamo. No, proprio le bustine, c'è una fabbrica a Cagliari che le fa precisamente per l'ente. Capito? Hanno l'appalto e mensilmente scendono loro da Cagliari e fanno tutto il giro gli impianti, a volte li accompagno io, a volte lascio i cancelli aperti, entrano e mettono tutte queste. Queste sono delle bustine, si chiama la ditta, non veramente, una ditta strana, comunque di Cagliari. È proprio dove fanno il mangime per i tubi, per i velini, dai, è una ditta di velini, fanno queste cose. Piano, dentro una busta me la metto, una cosa, sai quella barettina, una volta trattavano in Papuzia la ministra, veramente non è così, queste barette di plastica, e cose quelle che per mettere i cicci, le cose, i fagioli che dallo sacco, veramente che la cosa trattava in la ministra, servono i cassetti, quella specie di cosa col manico. Ehi, c'aveva quello lì, c'aveva, c'aveva un fusto grande ne aveva. Era tutto semi, c'era semi di girasole, di altre cose, mezzo, tutto mischiato con la medicina. Ma un altro, io l'ho spasso. Ah, dove erano tutti grandi, divisi solo, tutti quegli uccellini poveracci, tutti morti, perché sono, io l'ho messo fuori, l'ho spasso fuori, in giro, un coso. E gli uccellini sono andati a mangiare, ragazzi, e lì a tutti i fatti di visione morti, qua. Tutti gli uccellini ammazzati, perché non scalavano a mangiare. No, no, queste sono bustine, sono proprio bustine, capito? Sono quelle che tu vedi che vende l'osa, che vendono, però sono imbustati, mi pare che ce ne 250 grammi, noi ci davano una scatola intera, proprio, da 5, 6 kg, 10 kg, a buste piene. E praticamente quando il topo lo mangia, tu la puoi mettere anche in garage, per una bustina dietro l'armadio, dietro... Lui, se c'è il topolino che entra e mangia quella bustina, tu non senti niente, lo polverizza, capito? Lo polverizza proprio, non... è un acido in polvere che le succhia praticamente tutto lo stomaco, lo fa in polvere, non senti manco odore, è inodore. Sì, no, poi ultimamente mi ha dato, ultimamente mi ha dato dei crucci però, quadrati verdi. Ti ricordi, vedi, sempre senza buccia, ma non venne in buccia insieme a grandi, lui c'era la perché la mettono, con questo coso la mettono per terra, questo mangino. Mi ha dato, questa cosa mi ha dato una buccia di ricordi, vedi, quadrati sono, grossi, ma grossi enormi. E niente, ne ho messo un paio, ha già visto l'aria rosicata un poco, perché sono grossi enormi, non enormi, l'ha rosicato un poco e non è rosicato più. E sono rimasti sempre in terra. No, è già lo so, è fatto così lui. È fatto così. Dai signori belli, io vado a cena. Ok, ci sentiamo dopo se ci siete. Adesso c'è anche Antonello che sta cenando, Antonio, Lode, insomma tutta la grefetta. Io sono qua in quel ring, se non spengo niente, se ci siete rientro dopo, altrimenti. Ritenetevi tutti salutati. Per il momento stacco che vado a cenare. Ciao Forchetto, ciao Luigi, un bacio anche a Vulcanino e quelli che sono all'ascolto sul 3.10. Ciao a tutti, a dopo. ricerca a Antonio da stasera, gli ho risposto io, e poi ha rifatto così, non mi sembra, però ha chiamato a Claudio, no, a torre di controllo, io ho detto avanti chi vuole, chi sta cercando anche io, pure quella, chi sta cercando col paracchino quello, ma boh, stai girando di peso, lo sento di peso come l'ascoltavo prima, forse già è forte perché tu mi arrivi, ma non mi sembri Claudio, non sei andato fumi. Va bene, dai, un attimo di bianco, ciao, a più dopo se coincide, salutoni a Volcarino, a più dopo, dai, faccio un attimo di bianco. Praticamente la volta di Gigi. No, Antonio Grotte ha chiamato, no? Ha chiamato sul 45, io stavo rientrando in deposito, e ha chiamato sul 45 e ha chiamato la torre di controllo, stava chiamando a te, cercando a te. Gli ho risposto io, ho cercato di fare la voce tua. Poi è rimasto così e è rimasto un po'. Poi si è reso conto che non mi sembra, però non mi sembra grave, si assomiglia, non mi sembra adesso. Certo, sono rientrato alle 6 stasera, l'altra mattina alle 6 e mezza è uscito, domani c'è lo stesso, una giornata di fuoco, anche mercoledì c'ho tutti i campionamenti, fine mese, inizio mese per me è un disastro, comunque già non ci sono problemi, infatti sono rientrato verso le 6 e mezza. E niente, ho acceso la radio e come ho acceso la radio mi stava chiamando Antonio Grotte. Allora siamo passati un attimino al telefono, dovevo dirmi alcune cose e poi sono qua. Adesso però mi sta chiamando mia moglie andare a cena, quindi se ci siete riprendo dopo e altrimenti ritenetevi tutti salutati, dai. Ok, ci sentiamo dopo Gigi. È positivo, dai, io mi sono guardato un po' di televisione, ho appena finito di essere cena. No, perché domani mattina mi alzo alle 4, Claudio, 4 e un quarto, a dire la verità l'ho messa già la sveglia e non mi trattengo molto, mi dico la verità, non mi trattengo perché mi aspetto una giornataccia domani, dai. Sono la zona di Poduni, si ora, poi devo rientrare intorno a Olbia a caricare a Olbia, come ho fatto oggi, e mi sono una giornataccia domani nuovamente. Positivo. Vabbè, ricordami quando ci vediamo che mi sono dimenticato quel sale grosso di chiedertelo. Ma lo sale grosso? E poi male non ve ne più, a te perché non ce n'è, ti spiego Claudio. Il sale grosso ce ne avevo parecchio. E cosa è successo? L'ultimo maiale che ha ammazzato qualche tempo fa, qualche mese fa, Pierpaolo, mezzo fa. Ha detto vieni prenditelo e te l'ha portato via, pare se ce l'ha portato via tutto quanto lui, quel che sale grosso, per fare il lardo, per fare il lardo, per mettere il lardo sotto sale, pancetta e queste cose così. Vabbè, tu di la prima parola, ha detto Claudio di mettere il lardo sotto sale, poi invece del coso, come si dice, del sale già mi mangio il lardo io. No, se ti capita che vai là a caricare, prendilo qualche sacchettino, fallo e mettilo in garage. E quello che stanno prendendo, boh, no, non si vive a nulla, davvero. Se venivo un pugno va con di la meta, quello basta appena appena che è più grosso e va molto meglio. È positivo, però sai cos'è Claudio? Tu non ci crederai, l'unica cosa che non regalo mai io, me lo chiedono in tanti, e io sai, a volte lo porto per me così, lo prendo e lo porto, l'unica cosa che non mi va di regalare il sale, hai capito? No, non mi va, non mi piace regalare, perché sarà perché, non lo so, un'altra cosa posso regalare, ma il sale, non lo so, io agli amici di regalare il sale. Lo so, è un segno un po' brutto, vabbè, a tutti di. Tu prepara un sacchettino, perché si fa come col tennis, no? Si dà sempre qualcosa, io ti do 50 centesimi e così è pagato, nessuno ci deve dire niente. A Corrodoni aveva giurato, ma sai cosa aveva fatto? Portato un giorno, aveva le pilli, non so che aveva di pistello, di cose da fare, quindi ha già portato più di un quintale, tutto da giovanile, si è fatta già fa, e è venuto lì sotto il Monte Colombo, quando sa poi che lui c'è il coso lì, l'ho tutto caricato in camion. Addirittura ti dico una cosa, sai cosa mi hanno fatto? Siccome stavo caricando il solfato, sono venuti, è quasi un chilometro, una pala meccanica, una penna a ricamini rosari, a chi canto passava la picco culo e sono stati a fare della baracchina. Oh, sono venuti addirittura lì alle saline, che era quasi un chilometro la pala dove c'era il sale per alimenti. È venuta con la pala e me ne ha boh, me l'ha rappata in terra, si arrangiati, ma ribaltando il cimento era. Cazzo, una vennata, delle cose, si arrangiati, mi piace che sono in bue. E mi hanno portato anche le buste, da chi? Cazzo, se no, ribaltata vicino, si ero carichetto, cazzo, in terra, cazzo, una vennata di, mezza vennata, cazzo, di, cazzo, più di sequestrare di sale, ma pure in terra, si sa ricruci. Devo fino a un buffaggio, però parte a parte. Comunque mi ha detto Vittorio, il nipote, il marito di mia nipote, ma tu hai sta spiegando il vino, perché al compleanno di tuo cognato, presente di Domenico, io ho assaggiato questo vino bianco, buonissimo, e lei chi giù, capito, è quello suo, è un cane morto, ha detto che non aveva più. Lui la figlia dice che quella non ce l'aveva più, che ce l'aveva insieme a un cognato lì a Nulvi, questo quella zona di Nulvi ce l'aveva, salendo lì, quelle zone lì, dai, salendo dalla strada di Sorso per Nulvi, quelle cose lì ce l'aveva. Oh, era buono me, veramente, il bianco e il rosso, io lo vegliavo sempre da lui, scendevo e mia donna, ma era buono, era un po' torbido, puniva un po' di fondaggio, ma era buono, no, non solo se era buono. Adesso vino buono, boh, non è ora, proprio vino buono l'ho tutto finito io, capito? Io vino buono l'ho quasi tutto finito, non ne ho proprio, non sono formato di andare a cercarla, vai, siamo in agosto, ma non si è vino buono. Ma quello di Gervino era fenomenale, mi ricordo, era, già non l'abbiamo assaggiato, tu assaggia questo il Gorgondone, ha detto mamma mia, questo lo conosco già, infatti io quando ci è andato in pensione Domenico, mio cognato, che lui di famiglia, perché lo zio ha acquisito la figlia di Domenico, no? E l'ho assaggiato, ho detto, c'era Vittorio, mi ha detto, Vittorio, questo vino lo conosce, si via, questo vino lo conosco, ma detto, non ti ho detto niente, ti dico, quello lì è di zio Gavino, ammazza nei vari. È positivo, no, ma quello che avevo prima io tempo fa, ti ricordi, qualche anno fa, prima che andate in pensione, no, anche quando andate in pensione, no, poi l'ha mollata la vita, ti ricordi, era sempre di lui, di Gavino era, lo pigliavo sempre da Edo, paravo, ad Asiro, trovavamo lì al bar di Davvero, le cose, le cose c'era vicino alla campagna, no, forse il romano, ad Asia mi e pigliavamo il vino, capito? Niente, no, gli ho fatto di cortesia a Gavino, guarda, gli ho regalato di corsa, cavolo, gli ho fatto del lavoro a Gavino, non te lo immaginate, ma tu cosa ti ho regalato a Gavino, di cosa, poi gli ha fatto anche per Paolo, mio figlio, col pianale, ha fatto un altro lavoro per Paolo a Gavino, col pianale, trattore, con un altro cosino, un scappatolino gli ha portato da davanti Luca in Chibi e gli ha fatto di cortesia anche per Paolo. No, ma una volta stavo parlando e mi ha detto che non c'era per nessuno, capito? Proprio di te, ma tu c'è un movimento fra dei con Gigi, no? Non c'è nessun problema, c'è un terrorizzato. Ho detto bravo, c'era molta campagna la mia nipote che abita lì, proprio lui c'ha il confine con l'altro fratello, quello che è morto, no? Giovaniele, e era lì qui era con il titolo, travagliava con lo Gianni e Gianna, il mondo perché mi fa troppo quel ragazzo, Gianna mi sarà intrinfitto, dove lavorava il figlio di Sessonino, cos'è il travagliare, comunque il figlio Gianni, Gianni e l'altro scritto il mio rifornitore, come si chiama, chi si fa dritti, insomma, chi era il mio rifornitore, mi pare, era Gianni, Gavinuccio e Gianni pure che fatto di Gavinuccio si chiama, l'altro cugino che è molto. E lui lavorava lì, Gavino, ma di nera ne fa della vita, stati ai componenti, che era Minorito Minorito, tra me e Gianni, lo chiamavano il ragno, lo chiamavano, Minorito era il rispetto. E la zia sempre confumente, figlia del culo, le va a venerare, sappia che si faceva la finta di così fine, no? Pensi che invecchiato vinto Gavino Falso, non so più se lo conosce, Gavino Falso, il pari di questo d'ora Gavino Falso, che trovate a Costana, ma figlia del culo allentato lo sappia di leva, no? Se tra in culo del coso, figlia è della pulsante, allentato, sai Gavino, e pensi che lo sappia che pensava che lo sappia era avvistato, pensi che si vede nemmullato, figlia è rimasta la luce. Mai per la voce a fatta, sai cosa è diventato? Ma sai che c'era un trao che riesci a un fumo, un gatto da andare via, sai che è resistito a fuggire, la ciappava, la ciappava la ammazzava la dì. Però forse aveva vita allucinante, adesso non mollato, ma prima era pericoloso, era pericoloso, io mi ricordo quando era giovane, insomma, era un pezzo da 90, era. Però sempre di buona, di buon carattere, dai. Chiaramente era una persona un po' di una certa età e con Sanna lavorava, già lo so, sì. Con Sanna. Vabbè Gigi, dai, vado a mangiare che mi stanno chiamando, mi hanno già chiamato 3 volte. Se coincide ci sentiamo dopo. Altrimenti ritieniti salutato. Buonanotte, buon tutto e buon lavoro per domani. Ok, poi ci aggiorniamo in settimana comunque. Quell'antenna l'hai provata? Fatto nulla, però te ne devo raccontare una di Gavino, questa te la devo raccontare prima che passi, questa te la devo raccontare veloce te la racconto, questa si è bloccata tutta la 131 il giorno che tutte le macchine, tutte sono fermate il traffico, lì a Sardara, aveva un rifornitore da una parte e dall'altra. E cosa faceva lui la mattina? Come intendo, pigliava sempre da si aggiornare a tutti, non veniva neanche ti pucciava mentre pucciava nei giornali, tipo come si una volta era valse e salvucci, e adesso il gruppo paracchio sa chi giù. E dopo cosa ha fatto? Non si fa, alla frappaccia, e qua mi la guarda il raio. Anda a passaggio, perché a piglia, si incascia, lo guarda il raio. E si è schicciato le palle. E niente, da Mutighetti e si tocca dopo la guardarai che si è schicciato le cose, no? Oh, abbiamo provato, veda pure il suo cammino falso, la di io, in quattro, non va per la fantasia, ma a terra filo, la testa lo guardarai, a smettere strada. Si è fermato tutto lo traffico, la cliente aggiustarsi, va per almeno, la testa si è incacciato, la testa lo guardarai. Hai compreso, si è parato, se non ci cazzo si è incacciato tre. Intanto c'era Magedo, c'è un piscio, ma ne combina, a me ne ha combinato tutti i colori, ma stai scherzando, già lo conosco, poi quando inizia a ridere, è caro Remma, è stato una chiesa, non poteva camminare, non si poteva, c'è manco bugiato, l'ha fatto le palle, ero lì. Che droga, si capisce la cosa. Oh, in finché in sega, tu riuscì a tirare da una faccia, non ce la faceva, ma tra il miro, un rubese mi sta incasciato dritto, a cavallo, no? Un ancato da una faccia è cavallo al guardarrai, non toccava di per in terra. Si sta incasciato proprio, non me la mandi a fare tra il miro. Esce Maria, ehi, se mi capita di vederlo, che siamo in campagna. La via dei botte, vedi che ve lo dico, ma dimmi una cosa, ma lo dice il casciato le guardare, come ti te ne hai bucato, quella che lui cermelli. Nel mio, basta perché, ma non voglio ammentare, pensato perché se non puoi camminare, non me l'ammentare. E così dice, vive di buono, non mi lamentare, fai piacere a chi c'è quest'altro, una ghetta senza camminare, e io lo conosco, troppo forte. Va bene Gigi, dai, di nuovo, un caro saluto e ci sentiamo dopo, se ci sei, altrimenti ritieniti saluto. perché anche io me ne vado a guardare un po' di televisione. Ciao. Claudio! Sono questo pesce, ben sentito Gigi. Oh. Tu troppo in ritardo sei arrivato, l'ho fatto trattenere troppo io a Claudio, sto andando a cenare, se no la moglie ha detto prende la scopa, già mezz'ora e l'ho trattenuto, guarda un po' se ti risponde. Ciao Antonio Grotte che sto chiedendo. Claudio, non lo so, Antonio sta chiamando. Sì, l'ho sentito, non mi allontano mai velocemente, aspetto sempre magari qualche finalino, vai. Se vi trattenete che siete qua su 10, datemi il tempo di mangiare, ragazzi, e poi ritorno. C'è anche Forchetto, un QRX, ok? Ma come l'hai fatto, al sale o al rosso? Com'è che ti usci? Oh, io le orate le faccio al forno in teglia, con i pomodorini freschi, il vino bianco e via. Mentre invece l'altro con le patate, capito, sempre al forno. Ed è già pronto, si sente un bel profumino, quindi lasciatemi andare a mangiare, che meglio vista che la carne mangia a pesce. Hola! C'è già voi che tu sei fatto nel troppo casino, datti una regolata. C'è tutto spento qua. Ho fatto due giri lo Smith, mi ti giro l'antenna. Continua a battere il micichino, aspetta un attimo, aspetta. Bene, va così. Ah, lascia stare tutto com'è, sto scherzando, ma bella fare, cioè. Dai, fatemi andare a mangiare, ci sentiamo dopo, ragazzi. Ci dovrebbe essere anche Falchetto e c'era anche Gianni di Chiaramonti qua. Non so se è sparito, perché a me mi è salito il cuore e non lo sento più. Roger, buona carica, dai. Se l'hai fatti mangiare, l'hai fatti bene. Se sei su 5 di scoglio, già dovresti saper cucinare bene almeno il pesce. Certo, solo i 5 di scoglio li sanno cucinare i pesci, non li vai in tini come te. Ciao, a dopo. Ciao. Oh! Ehi, a bene va così, porca miseria, ma quando lo mettere a zero questo? Ah, mettilo come era, stavo scherzando. Sceglielo mettere così che già va bene. Io non ho capito perché quando arrivi da una posizione così alta che sovrasti i sassari, secondo me non hai bisogno di caricare. Riposi anche l'apparato, cioè. Ma non ho niente, porca accidente, non ho niente, detto guardami, adesso c'è l'M+4, è a 4, qui e il micigame del 68 è a metà, boh. Infatti vai benissimo. Oh, buonasera, hai appetito Cla? Bevi poco vino, bianco, perché col pesce ci vuole il vino bianco, Io bevo acqua, che è meglio, non la bevo a casa di vino, non ce ne vieni a casa, solo acqua, mia moglie. Magari fuori qualche bicchierino con gli amici, sì, ma a casa niente. Allora, lascialo tu, dai, non ti preoccupare, stavo scherzando. Ma ha ragione Antonio, non caricare, sì, 9,40 qua, te sei caricando, lascia voi. Non c'è niente, porca miseria, non c'è nulla. Sto dicendo, è tutto spento. C'è così, anche la radio va bene. Pesce, ma una muldu. Parchetto. Minestrone, non c'è. Attento Minestrone, con la buonasera che suona molto senza ascoltarti. Come stai parlando? Ah, non sei tu Minestrone, ah, quello di Chiaramonti. Sì. Ma sta parlando, sta modulando. Ho capito che c'era, comunque ho finito di mangiare. E buonasera, siamo rimasti io e te? Allora, l'Alligalli, fallo venire avanti, dai. Attenzione, Gianni di Chiaramonti, se copi il grotte. Sicuramente ha spento. Aspetta, porca miseria, aspetta un attimo. E ci faccio così. Ah! Adesso va bene, dai. Sì. Sicuramente avrà spento, dai. E così non va bene. Antonè, non va bene. Nel senso che sei troppo potente, ma... Io non riesco a capire, ma per cosa si modula? Per far vedere chi è più forte o per fare un piacevole QSO? Allora, guarda se va bene così. Siccome io sono già abituato sempre a avere tutto girato, il RFR Game a manetta, il MC Game adesso te l'ho messo a metà e il microfono amplificato a 4, va bene così. Ma davvero io, guarda, forse perché nella mia vita non ho mai usato microfoni amplificati, lo sto usando adesso, che non è questo, ma realmente è come se ci sediamo intorno a un tavolo, stiamo discutendo tutti quanti e uno si mette a urlare. Che motivo ha? Cioè, ti metti a urlare quando devi parlare con uno che è più distante, ma obiettivamente... problema suo, io siccome sto provando, sto cercando di regolare per dare la possibilità di non essere così invadente, non è che lo sto facendo apposta, no? Perché tutte le volte che mudo è tutto girato, infatti mi hanno detto, metti che una manetta, tutta la manetta metti. Così ho fatto, adesso invece sto regolando per darmi una regolata, non ne so io. No, io la verità non mi sento, dunque non posso regolarmi, così va bene allora, vai. Va bene, va bene. E niente, dai, poi vediamo questo tuo apparato, quando arriva com'è, poi vediamo anche l'altro, dai. Poi se continua tutta la situazione, mi posso, già non voglio il Midland, quello che sto usando adesso, e aggiungo qualche altro spicciolino e te lo prendo l'altro. Per come mi conosco io, comunque tornando a quel discorso, non è riferito a te, è riferito un po' in generale, che obiettivamente se in questo canale si abbassano i toni, nel senso che se si parla tutti quanti alla stessa potenza, considerando che siamo un tiro di schioppo l'uno all'altro, si modula anche meglio e si evita di avere mal di testa per questo motivo. Poi ci sono canali dove è giusto che si tirino fuori i cavalli ed è anche bello ed è piacevole sentire la potenza. Detto questo, ti stavo dicendo, il problema è che poi io mi affeziono alle cose, quindi te lo presto molto volentieri, mi fido di te, perché so che me lo tratterai bene, però venderlo poi alla fine, anche se ne ho due, boh, chissà perché, se è bello bello davvero me lo tengo, dai. Ti aiuto se vuoi, ti aiuto a prendere un altro. Ah vabbè, non c'è problema, per carità, no, non c'è problema, lascia perdere, no, non sono di quelli, io guarda, a me quando mi hanno sempre prestato le cose, anzi ho sempre trattato meglio delle mie, perché non ci dormo io, non voglio la verità rovinare le cose degli altri, sono stato sempre così, però non c'è problema, per carità, no, mi tengo le mie cose, non ti devi preoccupare per quello, era curiosità vedere com'era tutto lì, non è che mi sto assillando ad averlo, mi accontento anche di poco, io, stai tranquillo, non ti preoccupare, non sono di quelli. Mi piace, ho offeso. Però ti sto dicendo, questa è tecnica, perché ti dico che te lo presto, in modo tale che, guarda, è inevitabile che quell'apparato tu ti innamori, perché lo devi solo provare, non so se sicuramente l'hai visto, ed è un altro gradino, capito? Cioè non è più un baracchino, e niente, ti permette di fare davvero quello che tu stavi cercando di fare ieri sera, lo fai al volo. Faccio così il discorso, che è quell'apparato lì, giustamente, scusando la mia ignoranza, no? Sei sempre costretto a termini di legge a modulare dalla 27 sia alla 27, no? Giustamente, ci sono delle tabelle. Al di fuori non puoi fare, al massimo puoi ascoltare. Arrivato a un certo punto uno si tiene un semplice baracchino che funziona bene e ciccia, o sbaglio. Ti spiego perché... tant'è vero che io non lo uso mai perché non sono nella condizione di poterlo usare per una questione legale, però ti sto dicendo, la frequenza continua ti mette nella condizione di passare dal limite della banda in cui puoi modulare fino al massimo della banda in cui puoi modulare in frequenza continua, quindi non sei obbligato in determinati canali, ma puoi andare anche in mezzo. Questo ti permette e ti mette nella condizione di poter centrare persone che in FM o in SSB, quindi LSB o USB, sono leggermente spostate. Riesci a centrarle bene e riesci a modulare molto meglio, capito? Ah, in quel senso lì, allora il discorso cambia. No, sì, quello sì. Adesso vediamo piano piano, dai, cosa ne esce fuori. Dai, un po' mi aiuta uno, un po' mi aiuta l'altro, vediamo cosa ne esce fuori. Non c'è problema, dai, no... non c'è nessun problema, non ti devi preoccupare per quello, a me mi interessa l'altra cosa, che me la tengo più a cuore, quello può aspettare. Ma io ti sto dicendo, guarda, se fossi stato venale, ti avrei detto, guarda, te lo compri, te lo vendo e te lo tieni ed è tuo, no? Invece io ti sto dicendo, te lo tieni quanto vuoi. E basta, cioè, mi sembra anche la cosa migliore. E io ti dico che quando lo provi è tutta un'altra musica, capito? Tutta un'altra musica. Sarebbe meglio avere il 440 perché quello lì ti mette nella condizione di avere l'accordatore interno, cosa che tu ti devi comprare assolutamente, perché se vuoi iniziare a sperimentare, a fare queste cose con dipoli e cose di vario genere, lo devi avere per forza un accordatore, perché è vero che non ti permette di accordare fino a un certo punto, però ci vuole sempre, perché ti abbassa le stazionarie a zero se l'antenna è fatta bene, se addirittura se è fatta bene non hai bisogno, però nel caso ci fossero un po' di stazionarie te le tira a zero. Va bene, quello piano piano, guarda, io la verità le minime catatine le avrei volute, la verità, guarda, a me proprio per essere perfetto nella mia stazione ideale, no? Che in verità sognerei, mi interesserebbe avere un alimentatore come quello che c'ha Claudio, per dire, no, almeno un 12 volt, un 25 ampere, massimo 30. Poi andrebbe bene un accordatore, boh, io sono a posto, sono contento così. Solo che, vedi, se funziona quella cosa volentieri, se no tocca aspettare, vedi, non, a me mi accontento di poco, la verità, però spero più in quell'altra cosa, ecco, che mi dà più la possibilità di dormire tranquillo la notte. Io me lo auguro, te lo auguro, e sai come la penso, non ho bisogno di reiterare la cosa. Fatto sta che ci sono delle cose su cui puoi risparmiare, delle cose secondo me su cui non bisogna risparmiare. Vedi, un buon alimentatore ti mette nella condizione un 25 ampere e della Telecom e anche della Proxel, che sono, diciamo, che hanno un prezzo abbastanza contenuto, soprattutto questi che adesso sono switching, che hanno lo stesso sistema di alimentazione dei computer, di portarti a casa con 60-70 euro un buon alimentatore. Un'altra cosa su cui non devi risparmiare è lo smitter e wattmetro, scusami, smitter, il rosmetro e il wattmetro, non devi risparmiare, e se puoi intorno ai 130 euro, ed è una di quelle cose che ti rimane una vita, gli apparati li cambi, quello non lo cambi mai, e dopodiché un buon accordatore che costa lo stesso, buono, medio buono. Poi ci sono accordatori che costano davvero centinaia e centinaia di euro, come anche rosmetri, wattmetri e queste cose qua, però diciamo che una buona stazione deve avere queste tre cose, dopodiché gli apparati sono a girare. Sì, quello sì, ma alla fine, come dici tu, il rosmetro, il wattometro, come cavolo si chiamano, poi l'accordatore e l'antenna, alla fine, e avrei bisogno più di un accordatore e antenna alla fine, ecco. E un buon alimentatore, io sono a posto, e diciamo la stazione è abbastanza completa, ecco. O sbaglio? Assolutamente, non sbagli, ma poi il bello di avere un buon, come si dice, oggi proprio non mi rimane questo qua, un buon rosmetro e soprattutto un buon accordatore ti mette nella condizione di poter fare esperimenti come ho fatto io facendo i dipoli con i tubi d'acqua, capito? Perché poi riesci, sicuramente se c'hai 10 di stazionari non le fai scendere, però se c'hai 2-3 di stazionari riesci ad accordare bene e riesci a far risuonare anche l'acqua. Piano piano, dai, tu che c'hai almeno il computer riesci un pochettino, dai, alla fine trovare su internet delle buone occasioni, anche nuove, alla fine che converrebbe nuove, piano piano, dai, se funge con la situazione allora riesco piano piano a realizzarmi, se no alla fine andrò a elemosinare, perché questa è la mia intenzione, elemosinare, vado in qualche semaforo e non me ne vergogno di dirlo. Per andare avanti la famiglia. Io ti sacco di botte perché non sei nella condizione, vergognati di dire questa cosa, nel rispetto di te stesso, per quanto apparentemente ti fa onore, però non credo che chi ha testa come te sia nella condizione di dover fare una cosa del genere, quindi evita anche di dirlo. E guarda, il coraggio non mi manca, era prova, ripeto che pochi mesi fa era prova, vai tranquillo, fidati. Poi si deve aver fatto anche il vetro della macchina. Tipo, cosa hai detto? Ho detto che era a prova, sicuramente se fosse andata male, sicuramente ti avrei lavato anche il parabrezza della macchina. E ti avrei preso a testate, perché io lo voglio sporco il parabrezza della macchina. Comunque, a prescindere, nel caso ti proporrò un'altra cosa, a parte quella che ti ho già detto, ma ne parliamo un po' in verticale. E cosa vuoi fare? Io sono povero, non me ne devo dire, sono povero, non posso fare niente purtroppo. Capo, cosa ti sto dicendo? Non ti sto dicendo che ci vogliono soldi per fare questa cosa. Però ho una mezza intenzione di artigianalmente di costruire delle cose. Vediamo un po' cosa ne c'è fuori, dai, speriamo domani. Io la promessa te l'ho fatta, se domani non mi viene data una risposta, domani ci vado io. Almeno mi dice di no, è possibile che mi dica no, sicuramente mi dirà di no, però quantomeno quello che ti ho detto che facevo, faccio, punto. Va bene, dai, vediamo un po' cosa ne c'è fuori. Va bene, cambiamo discorso, dai, dimmi qualcosa di bello. Ma è questo Canadier Frucci? Chi è questo? Buonasera, è questo il Canadier Frucci? Frucci? No, no, è sul canale 20, anzi no, 34, perché quindi tanto non posso andare. Tu che non hai bisogno, pure tu. Ma mi avete fatto in voce, capitano Lassa? Sento che questo è il canale dove si parla bene, se no ti prendo per l'orecchio e ti sbatto fuori. E soprattutto abbassa. No, abbasso, lo metto in terra il baracchino. È basso, lo facciamo. No, guarda. Prima non lo posso abbassare, se no non mi senti più. Non ti sento più, sembra che sei qua a fianco. Boh. Tutta questa corrente, ma non la pagate. Ma no. Fasciatura, lui, boh. Vediamo. Buonasera anche a te, buonasera. Anche sembra a bomba, veramente. E non ci posso fare niente, sono proprio minimo, Minimo. Se non più, dopo non mi senti più. No, va bene così allora, dai, buonasera anche a te. Che? Luca. Ma col pizzetto sì, normalmente, sì. Sempre. Sono quasi 20 anni. Ho visto la foto. Sei carino di viso, In quattro però. Non so che sono brutto, non è il problema, ma il cambio quello se me lo dici, lo dico con tutti. Scusate un attimo, perché per giudicare gli uomini, devo dire la verità. Andiamo tra un po', ci andiamo dopo, dai. Ma c'è un'altra dopo, ma non c'entra niente, tanto il problema è che capita magari è un amico, vabbè, insomma, un tipo carino, cioè, ci fa complimento, ma non è che devi dire che è buono. Una cosa, ma hai sentito a proposito che è rientrato Danny Boy? Sì, mi ha fatto ieri. Ci hai parlato? Non mi parli con Daniele. Male. Non è che merito neanche a questa di faccenda, però mi raccomando. C'è problema. Non mi è vaccinato, non c'è per nulla per quell'anno. Lo so, però siccome li ho conosciuti insieme, un po' mi dispiace. Quindi se si può, sai, si fa un passo indietro da una parte all'altra e si trova in conto. Quello sì, vabbè. Bene, Claudio! Claudio ha cucinato e adesso si sta mangiando il pesce alla faccia nostra. Gli gnocchi, sardi. Al sugo. Aspetta, facciamo una pesca che è uno spettacolo, buona, un gusto spettacolare, veramente pesche così buone. Mi sembra di non aver mai mangiato e costava poco lì alla Sisa, mi sembra €1,80, ma buone veramente, proprio va. Doc. La Sisa già lo sai, occhi al nocciolo, ci sei andato a vedere Veniturbo? Praticamente avevo appuntamento alle 8:30. Fortunata no, però vabbè, io stavo a farmi la luce, ho detto, così mi preparo il tutto. Guarda, mi lavo, sto qua, a un punto mi contatta lì al computer. Mi fa, c'ho una dischiama, un bel forte. E cosa vuoi fare, dimmi? Se vuoi scendere non c'è un problema. No, lascia perdere, se non hai fatto una dischiama ti mandi a casa. No, vabbè, dimmi, se vuoi andare non c'è problema, andiamo offeso. No, non ci siamo andati. Sei compreso? Da qua mi fai parlare. Vabbè, a dopo, no? Da dove stai andando, Buludu? Fermati un attimino, scusami, c'avevo una bassa, ti stavo ascoltando ma mi è arrivata una chiamata. Ma già devo andare ancora. Esatto, ma perché? Cosa inizi con la frutta? No. Finisco con la frutta e poi gelato. Sì, adesso ti manca il gelato pure, mica diventi cane grasso. Infatti, quindi mi sembra una mazza, uia, vabbè. Confronta più, mi sa Daniele, è magro Daniele. Io per me quanto è lui. Adesso molto di più. E comunque ricordati che le più grandi amicizie si sconciano poi per cose futili, quindi bisogna sempre pensare alle cose, perché anche per fare un paragone, le ragazze se ne trovano 2000, gli amici veri se ne trovano pochi, e ricordati che l'amicizia è una cosa che va sempre a increscere, mentre invece il rapporto molto spesso sentimentale c'è una parabola, inizia, arriva all'apice, dopodiché scende, l'amicizia tende sempre a salire, quindi pensaci. Aldo, ma la fai una telefonata sì o no? Fammi una cortesia. Ah. Ciao, Maria. Quelli sono animali carnivori, e quindi attaccano qualsiasi cosa vedono muoversi. Ma c'era Antonio Brode poco fa, e Antonello c'è cioè pariti. Brode se lo fa mangiare, non lo so. E tu hai mangiato? Sì, sì, ma io avevo già mangiato da prima, poi quando tu hai fatto un attimo di bianco per carica, ho detto, beh, io ci facevo un po' il televisore, vedevo da c'è, sempre le solite cavolate, e allora stavo guardando un po' Italia 1, e poi niente, adesso sono venuto in radio di nuovo, intanto sono sempre matessi grossi. Oh, non c'è più niente anche la TV, non c'è più niente anche la TV, no, oramai, noi abbiamo Lugano e Barlunga, per carità. Purtroppo sì. E allora, ecco, compare, ora ci siamo anche la lavoretto, ce lo passiamo in privato. Adesso abbiamo fatto un bagno, abbiamo fatto la cucina, tutto, capito, un bel lavoro. Adesso vanno i falegnami che stanno mettendo il controsoffitto. E che c'è il... Aspetta, è qua che non sono altri cavalli. 5x4 fa 20. Non c'è problema. Da questo momento cambia tattica di nuovo come prima. Sì. Lui. Ho sempre detto, la gente si può contare solo con le dita. 1, 2, 3. Dai, chi mi non dici? Anzi, va 55, bisogna già rotto le palle stare qua. Eia. Non è che da quelle di una così, no? se non lo controllo io faccio controllare a un altro amico che conosco che fa riparazioni di comune. Se non è perfetto, non è neppure così da buino, no. Anche se dovete trovare a pagare due volte, se vuoi. Adesso vediamo, lo ritorniamo a fare, andiamo, lo guardiamo e poi vediamo un po'. Prima di pagare bisogna sempre controllare, capito? Perché se non controlli è un casino, non fa, poi ti capita che escono i problemi che lei ha pagato e allora lì hai perso. In effetti sì. In effetti devi trovarli prima di spendere denaro, se no poi mi risolvere, cioè, nascono problemi, io problemi non ne voglio avere, io vedo il quattrini, voglio la merce buona, se no se lo può anche tenere, capite? Poi ripeto, riguardo al motore, già al limite vengo da te, ti faccio una visita e guardiamo poi in Facebook se si riesce a trovare un motore a poco prezzo, si prende, dai, non è quello del discorso del motore. Quel 10 cavalli non lo voglio dare perché un gioiellino ho messo tutto quanto a posto e non mi dà cuore neanche darlo perché lo sto usando con quel gommone di 3 metri e va più che bene, capito? Basta non le bidonate abbiamo preso, adesso quel gommone che ha preso, capiti, la volta sempre buon peso gli ha data che si ne vara e non va bene, capito? Io bidonate non le voglio, se lui mi dà la cosa buona io le do il denaro buono, se no non se ne fa niente. Non fate così. E lì state attenti, magari c'è qualche parola che perde, o qualche buco da qualche parte, capito? Perché te l'ho detto, questo mio amico ha dovuto far rifare da Fundoni tutto il baiolato, siccome non è qua Sassari a Olbia, e quindi l'ha portato via da Fundoni, ha portato lo tombo. E ho dovuto far fare tutto il baiolato, tutta la parte gommata che mantiene il baiolato, tutto rivestito, che ha speso un bacchetto di soldi. E quindi niente, era già pagato, pure io 800 euro, 800 euro, non pareva che si è pagato. E ha speso altri 800, cazzo, con 1600, metto uno grande. Perciò state attenti, controllo bene, tutto sopra, gonfialo. Lasciatelo gonfio per qualche giorno, vedete come si comporta, perché magari se c'è qualche crepatura anche non la vedi, se non lo gonfi bene, proprio come con l'atmosfera giusta. E quindi ti rendi conto se è spaccato, se c'è qualcosa, qualche problema. Sì. No, ripeto, la bidonata se l'ho data già una volta, non ci vogliamo più cascare alla seconda bidonata. Si prende, deve essere una cosa ultima, perfetta, perché io gli do la caparra, al limite però se prende già dei problemi difetti, dico, caro mio, tu surdi non ne prendi altro, perché per riparare questo gommone io ti porto, lo porto a riparare e ti dimostro tramite fattura e scontrini ciò che io spendo e tu surdi mica rivedono, per non arrivare a questo è meglio sempre parlarne prima, vederlo prima, gonfiarlo giustamente come hai detto tu e lasciarlo per 2-3 giorni, anche una settimana gonfio, vedere un po' se ha perdite o meno, è tutto lì. No, bisogna controllarlo, lui mi ha garantito che è buono, è nuovo, però la garanzia detta a parole e a fatti cambia tutto. Dammi un secondo, spostati a ascoltare una cosa. Ieri siamo andati a vedere Benito, poi sabato era la sfilata del carnevale, che se la rifanno il 3, se vuoi andare, c'è il 3 la sfilata. Molta gente c'era per Beniturgo, sì. E c'era pieno, ti sto dicendo che quando siamo arrivati non c'era nessuno, perché loro hanno messo che era alle 7 in Beniturgo, invece alle 7 c'erano i balli, poi hanno fatto la premiazione dei balli, belli, commoventi, c'erano certi bambini piccolini. Qua sì, fammi. E qua sono, mi viene solo la voglia di cagare come lo sento. Ma stavo ascoltando l'altro radio, il discorso che stava facendo un po' non fa sempre. Manco vero io. Va bene. Sto di diavolo. Sono attorno a sto occhio, cazzo, mi sta. Non ci picchia. E quindi niente, stavo dicendo. State attenti quando fate questa cosa. Perché è molto importante, cioè. C'è in alta leva, quindi deve tenere, deve fare, capito? Quello è importantissimo, stiamo scherzando. Non è che dentro l'acqua tu perché dato stop o scende per la piedi, sei nell'acqua. Cioè non è. No, lei deve essere una cosa seria, un gommone deve essere più che efficiente. Tutte le tempere, perché non è facile, perché dove andiamo noi, specialmente lì alla sentiera, cazzo, quando si mette male è una cosa spaventosa lì, e lì deve essere pronto e attento a pulire in moto, a partire subito, che andare a fermare i ghibli è una cosa spaventosa. Sì, Lucio, la sentiera è male aperta mia, tu già la conosco quella zona, sì. La conosco molto bene, lì è mare aperto, devi stare attento perché ti sicuri a cercare qui di essere la scogliera, anche lì è andata di fugli, non sarei molto attenti, ma poi il fatto che sono prete è buono, se lui è onesto e dice guarda c'è questo problemino, c'è un buchettino di ago, vedi un po' cosa puoi fare, non c'è problema. Sono i materiali, quelli gommati che tappano direttamente il buco all'istante, come il gommista, capito? Come il gommista, non ci sono dei buchi all'interno del copertone, ormai non ci sono più camere d'aria, hanno un sistema di fare il lavoro direttamente con la gomma liquida. Chiamano saldature a caldo, si chiamano quelle, capito? Lì viene raspato un po' all'interno, tagliano un pezzo della rattoppa e poi va pressato nella macchinetta a caldo e viene sciolto a caldo, capito? E così al gommone, sono saldature a caldo, capito? E vabbè, ma quello già non sarà un problema, se lui mi sta garantendo che è buono, io prima di dargli denaro dico me lo lasci. Io vedo un po', lascio compio una settimana, se ci sono problemi, come me l'hai dato te lo riporti, capito? E io sono schietto e chiaro quando parlo, capito? Poi riguardo al motore, ripeto, vediamo con te, un 20 cavalli, un 15 cavalli, da, una cosa, non è che voglio essere grande motore, perché no, quando ci si mette un 20 cavalli va più che bene, capito? Oh, stai scherzando, però ha detto mio amico di Alghero, è anche uno di Castelsardo, un altro collega, ha un gommone che a me pare sia 4,20 m e c'è un 15 cavalli, lo porta benissimo, tra l'altro è tutto, c'è la console, è tutto il tendalino, tutto bello attrezzato, anche te sono stato, lo porta benissimo, quindi non è che devi portare gomma, non sei stato legno magari, sai, manco lo avrebbe mosso, però col gommone vanno bene anche quei cavalli lì, quella cesta. Infatti, non ci vuole questo grande, grosso motore per portare un 4,50 a Puglia, 20 cavalli ce n'è, ne avanza pure. 20 cavalli a Puglia, chi viene la dirà, io cavalli hai in Buru, KK. Si sta tornando al discorso di che quando si è soli si cerca compagnia sempre, capito? Per favore, a tutti dinni da giudizio, parla con me tranquillo, sereno, parla di tutto e fregatene degli altri. L'ho già spiegato, io oramai non faccio più caso a queste cose, non porto odio per nessuno, non porto rancore per nessuno, quello che devo fare lo faccio. andare a cercare né canale né fiume. Va bene così, tutto ok, sono contento lo stesso, non mi interessa, non me ne fotti più nulla. Va bene, eia. Così è, beh, se no mi devo fare del lavoro alla madre che vuole farli della dal discorso di quel gommone, vuole fare il barbicuro lì a casa sua e buttarmi un muro e fargli un archetto e come avremmo colto a travaglio e si appuccia. E che male è? Non è male, no, quando si fanno queste cose, ma più che bene, figurati, ottimo per la truppa, e ce ne fosse, lavoro così, va bene, giustamente se ci rientri, perché se il lavoro è superiore alla vendita del gommone, allora deriva dalla differenza, questo il maestro sei tu, lo vedi tu, se però ci rientri col prezzo, perché non farlo, ci mancherebbe altro. Sì, io ho messo solo la mano d'opera, poi se nel caso c'è differenza, dico signora cara, mi paga la differenza, tutto qua, però più o meno, dai, qualche po' di differenza c'è, perché per il lavoro dobbiamo fare noi, fare le barbecue e fare quest'arco, insomma un po' di differenza c'è, ma ce la facciamo dare in denaro, tanto lì me lo vuole pagare il lavoro, gli dico guardi, suo figlio mi dà il gommone e noi scaliamo i soldi del lavoro, scaliamo i soldi del gommone e poi il resto me lo dà in denaro e siamo a cavallo. E si conferma, ci manterebbe altro, qui sarebbe veramente una grande cosa, perché non ci rimetti niente di tasca, anzi guadagni qualche cosettina in più e quindi va tutto bene. E io voglio, mi sa che facciamo proprio così come mio compare. Se la madre vuole fare quel lavoro che non vuole fare senz'altro, noi glielo facciamo e lì poi ci pagherà la differenza, quello che c'è da pagare, tutto qua. E dopo quei quattrini, si piglia un bel motorino, 20 cavalli, si fa l'assicurazione dai 10 cavalli, paghiamo la differenza a quello di 20 cavalli, si usa quello lì, tutto lì. Allora, cosa buona, ottimo. Eia, è ottimo. Mi trovo detto questo problema, hai detto, perché se giustamente il lavoro corrisponde allo stesso importo del gommone, allora ve lo vai, non ve buoni nulla, cambio e ciccia, però se tu sai che il lavoro corrisposto da te è superiore a quello che la vendita del gommone, allora dici, allora il gommone più 200 euro. Sì, quello senza ombra di dubbio, Claudio, quello senza ombra di dubbio. Beh, adesso vediamo, adesso domani informo mio compare, tanto lo voleva comprare lui. E niente, glielo comunico, e così faremo, lo abbandiamo, già abbandiamo tutto, lo proveremo, se tutto va bene, lo compriamo. Se no, tua madre fa il lavoro, tu mi dai il gommone e io faccio il lavoro a tua madre. Poi se c'è differenza, ovviamente tua madre mi deve dare la differenza, tu dici. Ma certo. È così. Più o meno cosa ci vuole a fare una... Al solito non vieni qua. Faccio vedere, buongiorno, una cosa. Vabbè, a parte il fatto che bisogna mettere quel battiscopa che mancano. E con l'usura le cose ne sono usciti, quando abitavo la mia socia, io. Buongiorno, l'ho fatto toccare. Perché ho fatto tutto questo, ma l'ho fatto toccare. Tipo che c'è una resega, io gli volevo fare un piano fatto in mattoni, dove lì ho messo la griglia elettrica per arrostire. Quando vuoi, vengo il mio compare e non ci saranno problemi, no, voglio spendere un po', quindi lo spendi. Ne avevo una cosa bellina, l'avrei fatto buon show, perché a fare fumo in bocce qua, quando ero l'ultimo piano era sempre andente la goccia, pure un bugiuro, ho fatto un piano io, in legno, ho fatto bene, tipo un tavolo in legno con i piedi, diciamo, e sopra c'era sempre la graticola, sempre attesa, tutto andato, ma qua secondo non fa perché niente lo stile, ma fumo quella di sopra, non voglio creare problemi a nessuno. Però un piano per o con una cappa aspirante, capite, modo che quando cucini, tipo un baby cool, però con una cappa in modo che non faccia, che aspiri il fumo, capite? Tipo quella della cucina, una cosa del genere. Sì, sì, sì, è fattibile, è fattibile. Lì va fatto un bel piano in gasmetto, rivestito con i mattoni, dici, le piastrelle 10x10, oppure quelle 20x20 finto 10x10, come vuoi, le piastrelle le decidi tu. Ti fanno il piano, ci metti una bella cappetta, lì ci puoi cucinare tutto quello che vuoi, dai. Tanto gli odori la assorbe la cappa, capito? Esatto, esatto. Lo vediamo quello, è adesso la decisione spetta alle donne, perché io non so più cosa devo fare, ma stiamo aspettando questo business, aspettando una risposta, ci picchia, non so cosa fare per quell'altra, e quindi stiamo aspettando che si vende, non si vende, cosa si fa, cosa non si fa, però a me non si pronuncia, no? Io mi sono ritirato dall'udienza. Purtroppo è la donna che sta in casa, giustamente, deve decidere, no vabbè, fammi sapere quando sei disponibile, se posso al tiro con mio compare, si guarda il tutto, poi... Già non bisticciamo, qua non c'è problema per quello, io ci mancherebbe altro. Sì, lui ha la ricevesseria, lo già costruire una casa allora. No, il problema è quello che via Pascoli a settembre va via. Capito? E come IVA non ce n'è lì, perché praticamente quello della concessionaria è via Pascoli. Ma via Brigato come televisori, non ha saputo dove andare via. Ma la mela, e siccome il fratellato, diciamo, di un mio collega, di Davide Dall'Otta, e quindi, insomma, ho fatto tutto, ho lasciato anche la camionetta completa, perché non ne aveva, lui si era appena sposato, e adesso ha grossi problemi. Siamo già sentiti, 1, 2, 3, 4, la cosa sta iniziando a pesare, i mesi passano e tirano per me. E allora trovo una cosa. Signor Gravai, vai dini, perché poi se ti si accumula è un casino per te e per me. E così farà. Adesso mi devo dare una risposta definitiva, se ha trovato qualcosa di meglio, se no. E quindi da lì poi basta, non entra più nessuno, finito, basta uscire, infatti mi stavo dando una pulitina di garage anche, ho fatto su tutte le scatole del radio, me l'ho messa qua in mansarda, e lì ci metto l'altra macchina di servizio dentro, che è sempre buttata fuori da più, ho fatto la revisione oggi, che la uso pochissimo, vorrei c'è sempre quella nuova rossa. E l'altra è la Matis di mia moglie, che non la sta più usando, c'è l'altra. E quindi, insomma, 5 macchine ci sono a casa, che usiamo in 3, 2 ti ricordo in garage, pulisco tutto e chiudo tutto. Ehi, ma conviene quella lasci a tua figlia e... No, ma non conviene, guarda, vado a un certo punto a affittare oggi... Perché vedi cosa succede, alle volte tutto ti prego, e poi stanno 1, 2, 3, 4, no? Quando inizia a accumularsi così poi non se la fai più, è meglio che se ne vada prima, che sennò dopo li viene più. no, infatti stavo parlando mia figlia, cioè non so ancora c'è da dire, vabbè, non sto facendo niente di... però... non mi raccomando su... lo so, l'ho raccomandato io là, però... sì, ma... l'ho raccomandato, me l'hanno... Perfetto. Vabbè, sono cose che possono succedere, però... per evitare poi cose... siamo amici, hai capito, non è quello il problema, però... per evitare cose gravi poi... è meglio che ci sarei riuscita a situazione e basta. E da lì poi... sicuramente si vende, perché... non bisogna stare appresso la gente per farti dei soldi, capito? Se poi vai fondo in fondo te ne devi ancora di più, perché alla fine tocca restituire la cappara, tocca restituire tutto, che è un poveraccio, se stai anche via a medica 2 mesi d'affitto, ma la fattura, la frutta sei. Come fanno le ricche nel povero, non diventi, non diventi coglione. Eccola, c'è bene. La preferenza era giovedì, tu di non viene a metterla in vendita, se tua figlia no, non interessa, la metti in vendita, almeno almeno i quattrini ricavi, se non altro, non stai lì a rabattare, dico l'affitto, non affitto, no. La vendi e ciccia, almeno è venduta e buonanotte. No, ma infatti se c'era magari qualche collega sua che andava con lei lì a stare in compagnia, magari poteva starci anche lei, ma me l'ha già detto, però se non ci sto lì. Non le piace quella zona, abbiamo provato, a me piaceva sinceramente, anche perché facevo tutto a piedi, mi muovevo, avevo tutte le comunità, sempre speso un patrimonio per ristrutturare quella casa. E... c'è il garage, c'è tutto, però cazzo, tu immagini che per non sentire tutti i rumori sono stati messi le tutti gli infissi in PVC doppi, con i doppi vetri, quelli anche sfondamento, quando già aveva veduto parecchi da un bunker, non si intendeva manco la bocca urà d'inverno, mi coricavo, ma neanche molto tardi, perché non facevo neanche tardi alla radio, no? Io un povero, ne avevo molto avuto. Mi alzavo la mattina piovendo, ma piovendo a dirotto, non si intendeva manco i noghi. Qua c'è piove poco poco, o tira vento, non intendi il gasino, perché non ne ho, c'è solo le trattariere, non ne ho doppi fissi, capito? E quindi gli avvolgibili le senti, andiamo a sentirvi un accidente. Eh beh, in effetti, con il doppio vetrocamera, cosa vedete sentire? Qua io mi ricordo quando c'erano quelle finestre con quei vetri sottili sottili, un freddo, Claudio mio, mamma mia, e quando tira il vento, tu lo sai, queste zone qua, quando tira il vento è omicidiale. Meno male che l'ente popolare si è deciso a cambiare tutti gli infissi, ha messo doppio vetro, camera, diciamo, e vi posso dire che freddo non ne patisco, non ne so, da quando hanno cambiato tutte le porte e finestre, le finestre, si sta da Dio, ma prima non c'erano quelle finestre, oh Dio me ne scappi di un freddo, ma cari dai, e poi si sentiva tutto e di più, e meno male che hanno deciso di cambiare, sì, ci hanno aumentato l'affitto ovviamente, perché sono stati fatti dei lavori, e... però soddisfatti, dai, possiamo dire che siamo soddisfatti. E lì vabbè, come c'è un lavoro da fare, gli interventi, è chiaro che subentra l'ente, quindi tu fai la tua richiesta, cioè guardate che qua bisogna fare questo intervento, ma essendo magari del mestiere, tu ci guardi, lo faccia lì, poi ci dica cosa ha speso, o te lo scalano dall'affitto, insomma, qualcosa fai, ma non è casa tua e poi ne hai così, anche qua un sacco di soldi, diciamo che con tutte quelle migliorie che tu hai fatto, ricordati che la casa ha questo valore, teniamoci, questo sottolineato, e la casa lì ha questo valore perché tutto quello che tu hai fatto non sono mai soldi buttati così, intendiamoci. Quella acquista valore, tu qualora la metterai in vendita, se l'hai pagata una cifra X, quella cifra X aumenta, Non so, la valutazione delle agenzie non è malvagia, anche perché alla fine di via Pasqua è stato un investimento sofferto, ma insomma, visto che questa praticamente è stata ereditata, però l'investimento, quello è buono, ma non credo che sia, mi pare che sia poco più di 100.000 euro, 105, 110 mila euro, una cosa del genere. Ma ce ne vale perché è stata ristrutturata completamente, cioè l'è fatta completamente a nuovo. Poi da poco hanno fatto i poggioli anche delle facciate sia interne che esterne, e poi c'era un accordo per fare anche la facciata, nessuno si è messo d'accordo e quindi addirittura la scena tutti. Non avrei riuscito. Ma vediamo a settembre, adesso ho pure fede, che cosa ne sarà fuori. E se no, se buono come ora due antenne in Chivi, e forse un po' avanti e un po' indietro, un po' avanti e un po' indietro. No, quello la vendi bene perché a parte che è una zona che hai tutto, hai i supermercati, hai i tabacchini, hai i bar, hai, insomma, via Pasqua è una zona molto molto trafficata, c'hai tutto, dai, chi è che non la prende a quel prezzo lì? Io guarda, sono sicuro che se tu la metti in vendita ci manca poco, te la prendono subito. Sì, ma no, chi la venire a Paolo? Uno, prima di dare la IVA, è stato mesi appresso, guarda nella parte che è molto pronta, mi guarda, e io siccome c'ho un sacco di amici, e quindi ci manco c'è il guarda, ma come la baga va lì, sono solo di guarda, ma come fai a fidarti più? Cioè, se uno fa un investimento, lo fa con tanti sacrifici, tu hai idea dei sacrifici di un fattore, no, che... Ma guarda, non ne hai veramente idea. Perché qua, cioè, sono in due, mia moglie e mio cognato, quindi gli unici eredi del patrimonio che ho lasciato mia socia. Ma tutto quello che ho dovuto fare per accaparrarmi, diciamo, quasi la metà di tutto, straordinario che si deve bugare, anch'io mi sono aperto moltissimo le macchie, però è un sacrificio che fai e poi alla fine lasci tutto a tua figlia, cazzo è forte, tanto di campo una volta, fino a quando Gesù Cristo ti lascia, segui quello che devi seguire, poi lui solo sa quando dirti, beh, è arrivato il tuo momento, io ciao, arrivederci. Bene, zitti così. Beh, se fanno sacrifici giustamente per la famiglia, come tu hai detto, in questo caso lo stai facendo per te, cioè l'hai fatto per tua figlia e va più che bene, beh, è naturale che sia così, eh. D'altronde siamo un po' tutti così, e i sacrifici si fanno per i figli, anche se tra virgolette io non ne ho, però si fa tutto per la famiglia, ecco. Però già deve essere stato un ristretto buono, dai. Non penso siano stati soldi spesi così, dai. Sono soldi spesi bene e io sono convinto, anche se tu hai detto che sono tutti bla bla bla bla bla, sono convinto che qualcuno c'è e vedrà che se la prendo. No, la verità, c'è il fratello di Adamo, quello che gioca a pallone, come cacchio si chiama, adesso me ne ricordo, che lavora lì al bar di Chico Bar, che abitava a casa mia. anche se qualcuno pensa che sia un qua, una carogna o così via, ho sempre avuto buon senso per le persone che hanno avuto bisogno. E quindi no, mia moglie, anche se non era molto convinta, ho lasciato tutto qua, mi sono comprato questo tutto nuovo. A parte con le due stronzate che ho tenuto, qualche mobile antico, insomma qualche qualcosa che poi Giulio mi ha restaurato e fatto, di mia socia, ma adesso è tutta roba nuova. Adesso sto aspettando il salotto e due divani nuovi e basta. Però, dico, in compenso le sono andato anche abbastanza incontro. E ti stavo dicendo, c'è il fratello di Viavamo, non so se lo conosci, come si chiama quello che gioca a pallone? Non mi viene in mente, lo conosco ma non mi viene in mente. Franco, quello che lavora al Kiko Bar. Gianfranco è già andato a vederlo con la moglie, mi è piaciuto moltissimo. Io ti stavo dicendo, in una casa dove buia, mi ha detto, e tra l'altro non è nuova come quella, porte con quattro manivre, dice che le sono tutte nuove, la carta in bianco con i vetri stile inglese, madre di Dio, non ci voglio pensare. E andata a vederla, le è piaciuta moltissimo, però che sera, andata a vederla lui, c'era già Ivan dentro, capito? Quindi non è mio modo fare determinate cose. Se lui, io glielo ho detto chiaro e tondo, se tu ce la fai, per me ci può rimanere una vita, non mi interessa niente. Se non ce la fai, avvisami adesso che sia ancora in tempo, perché poi ti incasini e io non so cosa farti. Ti vuoi aiutare un mese, ti vuoi aiutare due mesi, ti vuoi aiutare tre mesi, da lì non divento ricco. Però il problema è che devi vedere tu, valutare tu. E lui ha detto che a settembre va via. Va bene. Ma fratello Adamo la vuole comprare o la vuole in affitto? Inizialmente la voleva in affitto, poi abbiamo parlato e era anche d'accordo per il prezzo. Perché mi ha tolto le modifiche, le cose, non me la fa tenuta. Però dico, non se ne è parlato più, perché io ho detto, guarda, c'è lui dentro, cosa faccio? Cioè, vabbè, quando sarà, avvisami, quindi magari l'avrà già trovato, io sono un anno e mezzo qua, e ho 21, così era, ma non vedo, siamo qua. Neanche un anno e mezzo, mi stanno correggendo, perché io non c'ho molta memoria. Vabbè, circa un anno e mezzo qua, quindi se ne è parlato praticamente quando io sono andato via da lì di questa cosa. Però quando era un impegno con uno che tra l'altro era anche sfrattato, ovvero per carità voglio essere lui ed era sfrattato, e quindi cosa va, torna indietro, no? Ha detto qua quanto uno può essere, io ho una parola sola, la mantengo. Sì, e quello è vero. Sei di quelle persone che hai una parola e basta, infatti sì, è da ammirare anche quello, capito? Qua lasciamo stare dove stanno, purtroppo è così. Intanto viene Pugo, qua, non è che fai niente, non è che... Alla fine adesso, come ti ho detto, poco anche il telefono, faccio uno più uno, deve fare due, se fa tre, è il bescio. Non frega più niente, rimango al mio posto, tranquillo e sereno. Ho chiusi tutti i discorsi aperti, per me sono già chiusi. Sì. Si conferma anche da parte mia. Ma va bene, da se ne parla in verticale. Certo, perché non scendi domani mattina? Io passo tutte le mattine lì alle 7. Alle 7 però, cazzo, alle 7. Non passare alle 7 e mezzo, o alle 10 e mezzo, alle 7. Tu alle 7 ti fai trovare lì, come facevamo quando ero la Turettana. Minuto più, minuto meno. Porti a Tullio, scendendo, e fai fare i suoi bisogni e mi aspetti. Io arrivo con Gabriele, ci prendiamo un caffè, ci fumiamo una sigaretta, tanto non è che abbia questa grande fretta di correre, ma presto, perché magari si sa anche bene come giornata, la mattina che è andata molto, a mezza mattinata ero già incubi, perché c'era un sacco di cose da fare. Io già mi faccio trovare giù domani, intanto scendo a Tullio, così fa le sue cose, mi approfitto anche così, prendo anche le sigarette. Sì, facciamo così, dai, ci vediamo alle 7, così ci prendiamo il caffè. E niente, dai, mi sa che si è fatta quasi ora, io chiudo tutto e me ne vuoi andare. Ci aggiorniamo domani mattina, ci vediamo domani mattina, così ci prendiamo la caffina, Claudio. D'accordo, Antonio, dai, un attimo, la buonanotte, grazie delle due chiacchiere e ci aggiorniamo domani, dai, ti aspetto, non mi fai gettati, stai gettando te, buono per me, passa, e ti offro il caffè, facciamo due chiacchiere, una sigaretta e poi andiamo, ce ne andiamo a tabacco come tutti i giorni, tanti alle 7 meno 10, passo a prendere a Gabriele, in via Trentone Sciatta e scendiamo da lì. Ci sono le sigarette, le pulite, almeno prendi un caffè, lo prendi pulito, non è che ti levi, non è che mi piacciono molto, a volte mi fermo da Brescia, c'è troppo movimento, troppa cosa, a volte ho visto come mettono le tazzine, le cose, non mi convince assai a me sciroppo, è sempre un chioschetto, diciamo, è sempre un bar da di passaggio autostrada, mentre lì a Ginepro è molto bello, malato con la pulizia, quell'uomo che non viene bene a dire, un baletto mai che va anche meno le dosi di gamma di riva. E poi già l'hai visto quando si mette a fare pulire, caccia, mi chiama tutto, tutto deve essere tutto lucido, perché sennò non se ne fa niente. D'accordo Claudio, dai, ci aggiorniamo domani mattina, io ti aspetto, io scendo alle 7, meno 5, 7, dai, e aspetto quando arrivi tu. Ok, detto questo, buon 144 quando lo fai, saluto del tecco e della familiare, è tutto, a domani, ciao Claudio, buonanotte. Ciao, ciao Antonio Falchiero, buonanotte, però ci sono, però ci sono, vai tranquillo. Ciao, buonanotte, ci aggiorniamo domani, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.